Stasera, ma poi senti che casino fanno, senti che casino. Io non lo so, vi sembra una roba da festeggiare a voi? Io va. A parte questo, non è festeggiare, con queste canzonacce, bociano, stanno senza un'orchestra dai vivo, 50 anni fa, ecco. Ecco, quello fu un bel festeggiamento, vedi? Che venne Gianni Morandi a cantare, eccezionale. Fece una serata, guarda, con tutti i pezzi suoi, fece i go-kart twist, fece Tu che m'hai preso il cuore, che non era la sua, però gli veniva parecchio bene. E poi fece quella lì che mi piaceva, puoi uscire una domenica sola con me, coserò la 500 di papà, poi sa ricordarsela tutta, coserò il batticuore, lo sa perché, e dopo si cantava anche noi, capito? Si faceva, lui diceva per dire ti porterò sulla spiaggia e noi no a ballare no e si divertiva, ma poi sai, se era ragazzi, sì, che noi avete Gianni Morandi ci parve di aver visto il Padre Eterno in persona. Quelli del circolo che erano un po' più grandi ci tenevano, sai, perché insomma quella la fu proprio l'inaugurazione ufficiale. Fu bello, io guarda credo non averlo mai più visto il circolo pieno a quella maniera, che forse ho pensato può essere stato anche quello il problema, cioè quando tu inizi subito con la serata più bella dopo è ovvio che da lì in poi è tutto un combattere, no? Tutta in salita, vabbè, insomma. Oh, si riprovò a chiamarla anche dopo, Morandi, quando si festeggiò, mi pare fossero 20 anni del circolino. Io ero anche nel direttivo in quel periodo, ci sono stato poco, ma in quel periodo c'ero. Gli si mandò questa lettera, a Gianni si mandò questa letterina, perché c'era lampada, disse tranquilli, allora lo conosco io, Gianni Morandi, voi mandate questa letterina, voi me la date a me, ci scrivo l'indirizzo e gliela manda a Gianni. Noi si scrisse, la si dà lampada, e quella fu la fine della storia. L'ha più sentito De Morandi? No. Vabbè, insomma, allora si chiamò, ora... mi pare Micaela e Magnifici, e venne ben uguale la serata, però insomma è un po' meno. E ora siamo a chiusura, senti che lavoro, bociano e basta. Ora io non ti dico di richiamare Gianni Morandi, ma cazzo, almeno Micaela e Magnifici si poteva permettere o no? No, davvero, o a me non mi interessa, per me, anche se questa è l'ultima sera, per me è una sera come tutte quelle altre. E io da 15 anni alle 9 so qui a questo tavolo per fare la briscola, e io Khrushchev sta davanti a me, due minuti sta di qua e la Madonnina sta di là, ecco, e io l'aspetto anche stasera, perché secondo me vengano, sono persone serie. Noi si fa solo briscola, scopo è 21, un cigarro, ma poi non è che un cigarro, ma non è che con questo mazzo mancamentato capace non ci si riesca nemmeno, guarda qui non mi torna mai nemmeno in solitario, beh è uscito un altro regio, va a culo, capace che sia perché manca il gobba a mattoni, non lo so, però non dovrebbe cambiare nulla, perché tu lasci un buco qui in questa fila, le probabilità dovrebbero essere le stesse, che questo è un gioco che non è che sia un'opera di ingegno, cioè guarda, funziona così, te tu fa 4 file, una per seme, cuori, mattoni, fiori e picche, tu mischi, tu ci metti 9 carte per fila, te ne rimane in mano 4, oddio, poi 9 carte per fila, qui ce ne rimane 8 perché io lascio un buco da uno, quella dei mattoni, insomma, comunque, poi tu pigli la prima carta e tu la metti nel posto suo, e via, e via, e via, quando ti viene un regio tu lo metti qui e tu ne pigli un'altra, dovrebbero venire alla fine reci, sicché è un solitario da balocchi, via, infatti me lo insegnò il mio babbo quando ero piccino, per avviarmi prima possibile alle carte, lui ci teneva, capito? Però con tutto il rispetto di parlare, le culo, le solo culo, né testa, perché dipende tutto da come tu hai mischiato le carte all'inizio, via. Anche perché, dico la verità, se fosse d'ingegno non lo so se mi riuscirebbe, perché io con la testa non è che sia, da quando mi successe quella brutta cosa, non, no, ma comunque qui non c'è pericolo, non mi ci diverto nemmeno più a farlo, guarda. Però cazzo, non mi è mai tornato in vita mia, Dio buono, mai. No, una volta, però perché parai, capito? Vidi la carta, buoni, e l'hai rimessa a posto, sicché non va bene. E alla mintigno, io sono fatto così, sono capoccione. Cazzo, mi verrà una volta, sono così, sono strano io. Se non fossi capoccione in questo modo, non sarei qui anche stasera a aspettare quegli altri tre banditi, vedi? Io aspetto e questo non mi torna. Poi anche se mi tornasse, sarei capace di dire a me stesso che non vale. Perché nel mazzo questo qui non c'è il gobba mattone, ma sono una sega. E si perse una decina anni fa. Ci fu questa serata dove in effetti si beve un pochino di più. Io infatti, a me mi ricordo, mi venne a svegliare Massimino il barrista, perché io mi ero addormentato qui nel tavolo con le carte e ogni cosa. Insomma, comunque andà a casa, il giorno dopo si torna qui, vai a ripigliare il nostro mazzo, perché questo è il nostro mazzo e Massimo lo sa, non lo deve dare a nessuno. Va a ripigliare il nostro mazzo e il gobba matto non c'era più. Dice, ma come? Oh, possibile? Dove è? Dove non è? Cerca, non veniva fuori. Allora la madonnina disse, allora cambiamo mazzo, perché sai, le donne le dicano di essere più sentimentali dell'uomo. Non è vero, non è a parole. Però dopo, appena manca un gobba mattoni, per dire le vogliono cambiare mazzo, con rispetto parlando, per la metafora involontaria. Insomma, io gli dissi no, anche due minuti era d'accordo, perché lui, sai, il gioco le scaramantico, sicché si guardò se la briscola la funzionava anche senza una carta, la funzionava più o meno, ora non vi sto a spiegare come, si fece un po' di regola apposta, e da lì si è giocato senza il gobbo a mattoni. E si giocherebbe anche stasera, se arrivassero. Mica saranno di là anche loro a bociare con quelle che... No, via, non è possibile, sono persone serie, dai. Io non è per lamentarmi, perché non mi piace lamentarmi, non mi è mai garbato lamentarmi, perché ora dello sport nazionale lamentassi. Però c'è una sola cosa che mi sta sui cazzo a me, aspettare. Ecco, aspettare mi dà noia. Il resto, guarda, anzi, a me le cose che funzionano un po' a metà, sai, un po' mancamentate, le più volte mi fanno simpatia. La televisione di circolo, per esempio, che non si è mai visto Rai 1, mai. Né prima con le antenne, né dopo con i decoder, niente, non si è mai visto. Nessuno ha mai capito perché. A me mi sembra una gran bella televisione. Una televisione con il suo carattere specifico, che ha deciso specificamente di non farci vedere Rai 1 per nessuna ragione nel mondo. Tanto cosa tu vuoi vedere su Rai 1? Sanremo? Non ce ne importa di Sanremo, no, a noi. Una volta magari quando ci andava Gianni Morandi ci importava, ma ora tanto non si vede più, anche lui, per dire. O la mia macchina, che non si può più aprire il finestrino del coso, come si chiama, del manicchiolo, del passeggero. Passeggero, io tanti passeggeri non ho avuti, ma insomma. Però volevo dire che da quando non si può più aprire, non ho mai più preso il mal di gola, che se no d'estate spalancavo ogni cosa, venivo via per la piana, e dentro la macchina c'era il riscontro, capito? Ora magari sudo un po' di più, però non mi ammalo. Sicché, vedi, anche questa è una cosa positiva. Io non trovo mai motivo di lamentazione specifica del momento. Ma aspettare mi sta su coglioni. Bella, lo sanno i dati tre stronzi. E perché deve essere per quella brutta cosa che mi successe quando... No, giovane non ero, perché avevo 37 anni, ma mi successe... E la fu brutta davvero, mi ci fa ripensare, perché io li sentivo, loro credevano che io non li sentissi, ma io li sentivo. Non c'è nulla da fare, bisogna aspettare. Guarda, io da allora non la posso nemmeno più sentire questa parola, via. Poi vabbè, comunque aspettare è un conto, aspettare qui nel mio circolino è un altro discorso. Vi torna o no? Qui mi sento a casa, no, qui mi sento meglio che a casa. Io non per nulla la chiamano la casa del popolo, o no? No, la chiamavano, via, ora si chiama come si chiama ora? Circolo di Lino, circolino ricreativo. Circolino ricreativo, una sega. Questa è la casa del popolo. Quando ci andavano i nostri babbi, sai? Io me lo ricordo. Il mio babbo ci andava anche durante il fascismo. Non si poteva. Non si poteva entrarci alla casa del popolo. E n'era qui, questa bella l'è venuta dopo, ma allora l'era da un'altra parte e l'era sempre la casa del popolo. E loro ci andavano la sera e dovevano far finta essere chiusi, davvero. Loro dentro chiusi, le serrande, ogni cosa senza luce, con le candele piano, zitti, zitti, il fascista fuori che l'aspettava. E loro entravano dalla porta di dietro, perché quella davanti doveva sembrare allucchettata. Si mettevano lì, giocavano a carte e ragionavano del Partito Comunista, che da allora l'era nato da poco. Fumavano le nazionali, fascista fuori che l'aspettava, e loro ragionavano il fascista fuori, perché il fascista, oltre che è cattivo, l'è anche stupido, non se ne accorge. Se tu sta dentro, basta tu spenga la luce, il fascista pensa sia chiuso, pensa me l'è stupido. Capito il discorso? Senza ma aprire le finestre, stavano lì loro, fumavano, infatti una cappa di fumo dentro quella casa del popolo. Se mio babbo ci ha rimesso la salute, io tutti i ricordi che ho di lui, lui tossiva, una tosse sempre, povero uomo, pare dovesse sputare l'anima. Loro l'hanno fatto i sacrifici, vedi, altro che noi. Oh, karma. Anche noi si sono fatti un po' di sacrifici, perché io dopo, quando è nato questo circolo qui, ho lavorato 10 anni in pizzeria a dare una mano, a fare la mia parte. Sì, davvero, lavoravo tutti i sabati e le domeniche, perché? Per nulla, che noi volontari alla fine si pagava anche la cena, pensa se era poco pischeri. Quando si fece la sagra del tortello, ma fu prodotto un quantitativo impressionante di tortelli. Io mi ricordo si fece il conto, alla fine se ne era fatti 12.000. Ma forse anche di più, qualcuno aveva contati 24.000, come i famosi baci della canzone. Io, boh. Chi li portò a tavoli? Cristo? No, si portarono noi, i volontari, sai, avanti e indietro. C'era da farlo per risistemare le stanze di là e di sopra, e noi si risistema ogni cosa, e poi con i soldi avanzati si comprò giocattoli ai bambini dell'asilo comunale. Perché le suore ce l'hanno i soldi per i giocattoli, io le conosco bene, sai. Comunque, è per dire che tutti facevano proprio la sua parte per tenere attivi il circolo. Anch'io all'inaugurazione, senti, mi ricordo, venne Pietro Ingrao. Io, Pietro Ingrao era un uomo politico che ora se ne vede davvero più pochi. Andò dai Bardazzi, sai, il primo presidente di circolino, andò Ingrao e gli disse: Bardazzi, sì, che c'è? E lui: io, Pietro Ingrao, ti do queste 10.000 lire per il circolo che avete costruito. Bravi, i miei complimenti. Porca miseria, ragazzi. Bardazzi disse: grazie, Pietro Ingrao, grazie per questo. E Ingrao: non mi devi ringraziare, Bardazzi. Non ci provare, Bardazzi, non mi ringraziare, Bardazzi. Io queste 10.000 lire le rivoglio. Questo è un prestito per iniziare l'attività, ma voi vi dovrete sostenere con le vostre gambe. Sta attento, Bardazzi, perché torno a ripigliarle, eh? Io guardo davvero, Bardazzi, torno, eh? Che hai capito? Via, allora vo. Buona, Bardazzi. Buona, Pietro Ingrao. E via. E si levò di culo. Ma tornò, eh? Tornò. Oh, figurati se Bardazzi aveva speso le 10.000 lire di Pietro Ingrao. L'aveva incorniciate. Infatti, quando Ingrao tornò, si fece anche poca fatica, si scorniciarono e gli si resero. Fine, capito? Ma non mi voglio vantare, che a noi non c'è mai stato bisogno, capito? Non so se furono le 10.000 lire a portare bene, ma già non so ora se vi ho parlato di quella bellissima serata inaugurale con Gianni Morandi. Probabilmente ve l'ho bell'e detto, ora non mi ricordo. Però guarda, oh, lui a quei tempi, lei era un ragazzino, eh. L'era, pensa te, l'era venuto in macchina con il suo babbo, a portare il suo babbo. Oh, ragazzino, no, le donne lo vanno a mangiare. Alla fine fu fatto scappare da dietro, sai, e portato in casa di Biancalani, perché si pensò: nascondiamolo dove non se l'aspetta nessuno. E in cucina di Biancalani non se l'aspettava nessuno, Gianni Morandi. Forse nemmeno Gianni Morandi si aspettava di finire in cucina di Biancalani. Però insomma, era per dire. Poi un'altra serata benissimo, perché venne proprio un sacco di gente, fu quando venne Charles a cantare. Perché Charles, io non so se qualcuno se lo ricorda, lei era un calciatore che cantava anche, bravissimo anche lui. Peccato giocasse nella Juventus, insomma, non è che a tutti proprio andasse bene, perché si sentiva dire: ma che ha mai visto Montuori salì sul palco a fare le canzonette? Insomma, comunque, venne bene anche. Però guarda, io devo dire, più sordi di tutti in assoluto si fecero con la pizza bassa. La pizza fine, sa, la pizza, come si può dire, la pizza scrocchina. Boh, la pizza, io lo so che ora è normale che tu vai in giro, tu la trovi in tutti i modi, alta, bassa, non è che sia motivo d'attrattiva, ma allora chi l'aveva mai vista? Era un tipo di prodotto, si presentava diversamente, lo si faceva altro che noi, davvero. Senti, andò così. Un giorno arrivò al circolino i Mazzi, il povero Mazzi, Babbo Khrushchev sarebbe, che era un comunista, ma lasciamo perdere. Arrivò con questo fogliolino e disse: questo è il mio contributo ai circolo, bravi. Noi si è visto questo foglione, si trovò la ricetta della pizza e si pensava lì per lì ci pigliasse per il culo, perché mi ricordo gliene dissero a Comazzi: compagni, che vuol dire sta roba? Ben via, e ci ha messo 10.000 lire anche Pietro Ingrao e te ci metti la ricetta della pizza. E lui disse: Bardazzi, te fa una cena sociale con questa pizza, poi tu vedrai se tu mi rammenti, con tutto il rispetto per Ingrao, e andò via. Boh, e aveva ragione. Ma io dico, ci si è fatto milioni noi con la ricetta della pizza pasta e Babbo e Crucio, che poi eravamo lui fra l'altro un si godette nemmeno il successo, perché morì poco dopo. Infatti Khrushchev, mi ricordo, arrivò al direttivo una sera e disse: compagni, io sì, scusatemi, ma stasera avrei una mozione un po' personalistica, vorrei proporvi al posto delle 10.000 lire di Pietro Ingrao, che tanto ormai gli si sono anche belle rese, se fosse possibile inquadrare la ricetta della pizza che ci ha lasciato il mio povero babbo morto e stentato. Nessuno trovò nulla a ridire e da lì in poi nella sala delle carte c'è inquadrata la ricetta della pizza. E Khrushchev sta a sedere lì davanti, vedi, il mio compagno. Oh, quando dico compagno intendo compagno. Noi siamo cresciuti insieme nel partito e qui al tavolo da gioco. Lui sta sempre a sedere lì perché vuol dare le spalle alla porta, lei è un'abitudine di quando era sindaco, che diceva se non lo riconoscevano subito appena entravano andavano tutti a rompere coglioni e via. Che poi figurati, la gente aveva imparato che il sindaco Mazzi sta a sedere lì e venivano uguale a parlargli delle buche della strada, i lampioni che saltavano, queste cose hai visto da paese. Lui diventa rosso, figurati, si vedeva gli girava coglioni a elica, però poi alla fine rispondeva a tutti, Infatti in paese gli volevano parecchio bene come sindaco specifico, e loro l'hanno rieletto tanto, fino a che l'hanno potuto l'hanno rieletto. Io non lo so chi fu il primo a dargli il soprannome di Khrushchev, ma a regola qualcuno che vada a lamentarsi perché comandava sempre lui. A me Leopoldo Mazzi, pur detto Khrushchev, mi è sempre parso tanto una brava persona. Guarda. Infatti si cominciò a fare coppia fissa in sezione, alla festa dell'unità, al circolino. E allora cominciarono a pigliare per il culo anche me, cominciarono a chiamarmi sindachino e dicevano che stavo con Khrushchev perché ambivo anch'io a... boh, ma sono una sega, che come se fare il sindaco in un paesino in questa maniera potesse comportare il potere, le donne, sordi, boh. Khrushchev non ha mai avuto uno per fa due e la sua moglie è grassa con un Volkswagen, sicché insomma, ma insomma dai, ancora mi chiamano in quel modo, sì il sindachino e lui Khrushchev. E anche lui l'è rimasto sempre proprio, ma ci va bene così, anche se io lo devo dire, ora scusate perché mi vergogno un po' a parlarne, via giù, ve lo dico, allora né io e né lui si va più nemmeno in sezione, ci si è provato fino in fondo, davvero davvero compagni. Ma quando si è visto Renzi a pregare sulla tomba di Lapira, e che vi devo dire, si è capito che l'era finita. No, davvero, cioè, Khrushchev soprattutto l'aveva incassato sempre benino. Cioè, quando da Partito Comunista Italiano si diventò Partito Democratico della Sinistra, lui guardò il simbolo e disse, ma via. Sì, c'è la querce, però la querce è un albero proletario che la fa le ghiande per dare maiali. Poi, oh, alla radice c'è da farci in martello, e fino a che c'è da farci in martello a me mi va bene. Compagni, avanti gran Partito Democratico della Sinistra, noi siamo dei lavoratori. Poi però si passò da Partito Democratico della Sinistra a Democratici di Sinistra. Io non lo so, Rimase la querce, però è posto la farcia in martello, ci misero sta rosa rossa. Khrushchev ci rimase. Sarà che incominciava a avere su annetti, a me parve vedere un vecchio a 10 anni una botta sola, guarda. Disse: ma oh, come mai la rosa? Cosa ci combina la rosa? Boh, via, se il partito ha deciso così. E gli dissero: guarda, Khrushchev, non si chiama più partito. T'ha visto o no? Sì, vabbè, non si chiama più partito, ma insomma, c'è la parola sinistra, insomma, poi da lei, ma uno con le sue idee, un po'. Ma, sì, ma quella rosa? E che ha quella rosa? È rossa, no? Allora va bene anche la rosa. Avanti popolo, alla riscossa, la rosa rossa trionferà. No, gli facevano. Se tu canti codesta, tu ti devi iscrivere a Rifondazione Comunista. E lui, zitti menscevichi, puppa! Perché insomma, almeno lo spirito combattivo gli era rimasto. Però, il Partito Democratico non lo resse. Per l'appunto sarà qui ai circolino quando presentarono il partito con quel simbolo, quella specie di tricolore con la fascia bianca che rappresentava l'area cattolica. Mamma mia, io guarda, Khrushchev guardava la televisione, non parlava, beveva un fernet dietro quell'altro, che poi era lì, ragionavano Veltroni e Rosi Bindi, io non so che si sia fatto male, ma... All'ottavo fernet lui si provò a dire che però almeno questo, compagni, si richiama partito, no? E noi si abbassò gli occhi perché si vedeva proprio patire del compagno sconfitto. O anche noi ci si rimaneva male a vedere la fine, ha fatto il partito, ma lui l'è diverso, lui non ha avuto martro che il partito è la briscola, capito? Tutte quelle altre cose sono rumore di fondo, sai? Una ciostrina che girava mentre lui pensava cazzi sua. Non gli è mai interessato le donne, lo svago, niente. Lui aveva la passione politica, quella vera, altro delle storie, quella tramandata da babbi e nonni cresciuti con il mito di Lenin, di Trotsky, di Gramsci, di Togliatti. Insomma, tu capisci che poi ti ritrovi a passare da Matteotti a Matteo Renzi, ti possono girare anche coglioni, via, dai. Lui ultimamente non vuole nemmeno che si dica, ma e gira voce che Khrushchev non vada più nemmeno a votare. Altro che in sezione, nemmeno a votare. Io non lo so. So che le è rimasto un gran giocatore di carte, come ce n'è pochi, e io so non so contento, so orgoglioso di essere stato il suo compagno storico. A carte e non a carte. Poi gli è rimasta questa abitudine di mettersi a sedere con le spalle alla porta, vedi? Non vuole distrazioni. La prende sui serio lui la briscola. Sarà che gli è rimasta altro che quella. Non lo so. Lui infatti la prese male la perdita di Gobba Mattoni, non s'oppose mai direttamente, perché lei è un politico di natura, lei è un diplomatico, però disse: allora invento io le regole per giocare senza. E fu via, ve lo spiego, via un attimo. Ora magari se non vi interessate di carte, io bisogna faccio un discorso un attimo briscolistico specifico. Fate una girate la RAV, mettete Virgin Radio, fate che cazzo vi pare, andate ai bagno, io tanto ci metto un attimo, dai. Allora, praticamente funziona così: non si gioca a briscola normale fino all'ultima mano, va bene? In quella mano lì il secondo a pescare prende automaticamente i gobba mattoni, va bene? Quindi all'ultima mano uno di noi quattro gli ha sempre due carte invece che tre, cioè no, n'ha tre, ma una le, come si può dire, immaginaria, via, una carta di fantasia, perché lei gobba mattoni e quando decide di giocarla la dichiara, dice: allora ci ho messo i gobbo a mattoni. Ecco, a vederle da fuori le nostre partite si pare grulli, perché dice: che bisogno c'è? I primi tempi, i vecchini del circolino scrollavano il capo e andavano via. Ce l'hanno perdonata dopo, perché modestamente a parte noi siamo quattro giocatori come non se ne vedano in giro, e sicché venga lo stesso a vederci giocare, anzi siamo diventati famosi. Il nostro lo chiamano il tavolo senza il gobbo. Andiamo a vedere che fanno il tavolo senza il gobbo, capito? Però all'inizio Khrushchev non era contento di questa soluzione con la carta immaginaria, via, diceva che il gioco l'era farsato. E gli si disse: ma come mai? E lui, insomma, noi, sì, capito, spiegaci, ma c'è un problema serio. Sì, quale è lei? Dice: Allora, secondo me il discorso, il problema è che è meno probabile che Mattoni sia la briscola, perché c'è una probabilità meno rispetto a quegli altri semi, e questo è un dispiacere profondo per la dinamica del gioco in sé. A qui punto intervenne Domenuti, prese in mazzo senza il gobbo, lo mischiò per bene, lo fece tagliare a Khrushchev e tirò su due carte a caso, così, sai, pam pam, Mattoni e Mattoni. E Khrushchev disse: allora, come non ho detto, io non ho altro da aggiungere, vostro onore. Quella è la capacità di Domenuti. Pare che le carte gli diano retta. Oh, ma è incredibile. Ma san quanti l'hanno studiato per capire se barava come barava. Ma sì, ma figurati se bara. Io lo conosco da tanti anni. Lei è un gentiluomo. Non bara. Ed è così, è una cosa proprio quasi magica. La Madonnina invece lei è un fenomeno a contare. Ma guarda, una roba, la pare quei film, sai, l'americano dove lo portano qui Gruldo a giocare a carte, e lui sa sempre che carte, ora Brain Man, come si chiama? Insomma, lei la sa ogni cosa. La sa, ma non solo punti e le briscole, lei la sa anche se le è passati quattro a picche quando briscola del cuore. Io cosa la se ne faccia di tener conto anche dei lisci, la lo sa altro che lei. Però non ne sbaglia uno. Khrushchev è un fondista. La sua arma è la pazienza, la strategia, la calma. Ve l'ho detto, è un politico. Lui la carta sbagliata non la gioca mai. Mai. Può essere un po' noioso a giocarci insieme, perché a volte ci mette 20 minuti e decide cosa tirare. Però lui per perdere bisogna che l'abbia sculo, perché se gli entrano le carte, non dico buone, ma proprio, ma anche un po' mediocri, lui ne tira fuori sempre il massimo. E io, modestamente a parte, sono un mago degli ammicchi. Io non m'ha mai visto nessuno ammiccare a me. Io per i miei avversari sono come un fantasma, e chi gioca con me sa sempre tutte le carte che ho in mano. L'avversario non lo sa mai, e quello che gioca con me è avvantaggiatissimo, è come se giocasse con uno specchio, capito? E perché io gli faccio capire tramite tutta una mimica facciale del corpo umano che carte mi ritrovo a avere in mano in quel momento. E è un dono, io non so, che infatti Domenuti me lo dice sempre: magari l'avessi avuta io con questa mimica sciorta quando facevo l'attore. L'attore. Domenuti sta a sedere lì, no, più che altro sta a sedere di là dove c'è quelle macchinette, sai, le slot di videopoker. Tu prova a chiamarlo per dire se hanno tutti i che si aspetta altro che lui, perché comunque è sempre un talento naturale, con tutti i giochi, specie con le carte. Ma tanto quando tu lo chiami va sempre nello stesso modo tutti i giorni: Mauro, perché si chiama Mauro di nome, che ti muovi, si aspetta te. E lui: Domenuti, arrivo. Infatti Mauro non ce lo chiama più nessuno, perché in compenso questa bella parolina, che è la fusione delle parole due e minuti, che risuona tutti i giorni almeno una decina di volte dall'angolo delle macchinette alla sala delle carte, gli si è appiccicata addosso come la colla, e lui risponde così a tutti. Se Massimo va a Digni e c'è una telefonata per lui, perché figurati se lui c'ha il cellulare, Domenuti arrivo. Quando passa a chiamarlo la sua moglie, prima che si lasciassero, passava: Domenuti arrivo. Se gli dicono che gli va a fuoco la casa, l'uguale: Domenuti arrivo, sempre uguale. No, sempre uguale no, a volte dice: arrivo Domenuti. Però ecco, queste sono le variazioni in Massimo può fare. No, poi ci aggiunge qualche spiegazione, tipo: Domenuti, ancora oggi non ho vinto nulla. Oppure: Domenuti, prima qui c'era un cinese, c'è stato un'ora attaccato, ora vedrai, mi esce poker. Oppure: Domenuti, ho spicciolato 20 euro, fammiceli finire, mi pesano in tasca, e via. Però a forza di Domenuti ridi e scherza Maurino, e ci si è rovinato con quei trapiccoli di cazzo. E a me mi dispiace, sì, perché mi sento un po' responsabile. Guarda, io ho fatto poco parte del direttivo, ma degli anni ho fatto parte, io ho duri morsi. Il primo aveva votato a favore del disfacimento del pallaio, che perché si per allargare la discoteca, ma figurati, non erano mica più tempi di Gianni Morandi, ma figurati se c'era bisogno. Però insomma, nel frattempo il pallaio si era disfatto, quei vecchini con le bocce tu li vedevi sempre più mogi, poi smisero di venire. e ho saputo che avviarono ad andare a giocare a bocce dall'oratorio, dal priore. Pensai, ma guardate cosa gli si è fatto fare a questa gente, povera gente, si sono obbligati, vabbè, ma fecero bene, eh? Io non li giudico, no. Però più in colpa ancora io mi sono sentito per videopoker. Sì, io sono stato di quelli che hanno votato a favore di mettere queste macchinacce infernali. Non mi vergogno a dirlo io, a differenza di qualcuno, perché quando si rifece il conto delle votazioni pareva avessero votato tutti contro. Allora perché saranno messe? Lo so io perché. Perché sordi non puzzano, ecco perché. E lo so anch'io che il circolino va sempre peggio, c'è da pagare la luce, il riscaldamento. Massimino, c'è da pagare Massimino, chi lo paga? Cristo? Lei qui dentro la mattina e la sera, un po' le mica su un volontario. Te lo dico io chi lo paga, il videopoker, ecco chi. E infatti si misero. La ditta ce li proponeva da tanta, sai, perché poi piano piano anche quelli hanno smesso di fare i carciobarilli, i flipperi, non ne porta mia per nulla a nessuno, eh. Mi ricordo quando entrarono Khrushchev, corse subito a tappa all'occhio ai poster di Berlinguer, guardare Enrico ti fa male, e poi ci guardò a noi e ci disse: compagni, la questione morale riguardava anche noi, non solo le dirigenze, non facciamo finta di non saperlo. E andò a bere il quinto Fernet, che poi fra l'altro l'aveva votata a favore anche lui, sì, che pensa, ma insomma, comunque dopo due giorni Khrushchev se ne avrebbe scordato di quei cosi, e anch'io. Ma chi se ne è più scordato? E stavo Maurino. Niente, cominciò a passarci sempre più tempo e ci si è rovinato. Davvero, guarda, cioè, qua mi viene da ridere, ci ha guadagnato un soprannome e ci ha perso tutto il resto. Sordi, lavoro, la moglie, la casa, tutto, tornava a stare con la sua mamma. C'ha quasi 100 anni la sua mamma, tanto. Tanto a lui gli importa una sega, a casa ci va per mangiare e dormire. Adesso il tempo sta qui. Sono nemmeno dove li trova sordi per buttarli in quelle macchinine. A regola glieli prestano, perché è bella quando lui e la Madonnina perdono a briscola, non glieli fa mette mai a lei sordi, mai. Paga lui se, oddio, lei è un caffè, non è il massimo se giochi il fiasco del vino, però due volte l'anno, ecco. Ma insomma, e da ragazzo per l'appunto faceva il teatro. Era un attore di teatro negli anni che il teatro ancora esisteva, via. No, per carità, esiste ancora, lo so, però via, non ci pigliamo per il culo, che esisteva per davvero tra la gente del popolo, insomma, quando ci si andava tutti a vedere le rappresentazioni. E l'attore del paese era lui, e era anche bravo, sì. Ma però campacci di teatro era un po' difficile anche allora, sì, che quando a un certo punto trovò questa donnuccia, si innamorò, e lei a regola cominciò a fargli quei discorsi, via, trova un mestiere davvero un mestiere serio, e lui insomma tante la disse e tante la fece, lui si fece convincere, entrò ragioniere in una filatura, ma sì, per anni l'ha resistita a capobasso andare a fare quel mestiere, che non recitò mai più nulla, non rimontò in scena mai, nemmeno per scherzo, ma il giorno che entrò in quella filatura lui era bello e morto. E poi guarda, sono stati questi videopoker a fargli dare lo scrollone finale, a fargli dire ma sai che, ma vaffanculo ogni cosa, la filatura, la mia moglie, la casa, il teatro, la puttana della... Ora ve lo dicevo. No, scusate se divento, ma mi c'ha caloro, ve l'ho detto, mi sento un po' responsabile. Beh, non è mai cambiato in questi anni, sempre magrino, con quei buchi nelle gote, il naso lungo, l'occhio un po' in giù, però tutto sommato sempre di buon umore a modo suo, cinico, hai visto, è un po', però in paese, e si dice che lui una volta ha parlato col Padre Eterno. Lui stava tornando una sera a casa, era più disperato, c'era più debiti di solito, dice ne apparse Dio in persona, gli disse: Mauro, sono il Padre Eterno, ascolta Mauro, vieni via con me, tanto te sulla terra tu fa altro che danno, tu vieni con me, ti vengo a pigliare e ti porto nel paradiso. E Maurino rispose: ma io nel paradiso, io non so da andare all'inferno, io mi sembra di aver fatto tante cazzate, che ne so, al massimo è purgatorio. E il Signore gli disse: ma che vuoi fare polemica anche con me, Maurino? Lo saprò, te tu sei da paradiso, via, su, andiamo. E Maurino allora gli rispose: due minuti, arrivo. Io ci credo. Addio. Non lo so. Io ogni tanto mi viene a credici, sì, addio. Sarà che non lo so, forse perché ho fatto la scuola dalle suore, a regola qualcosa mi è rimasto. Due suore mi ricordo in particolare, Suor Celina e Suor Leontina. Si chiamavano così, che io infatti da piccino credevo ci volessero nomi strani per far la suora, capito? Una specie di nome d'arte, che non ci poteva essere Suor Roberta, capito? Invece, Suor Celina era cattiva. Io me la ricordo bene, ma da questa donna fatta a forma d'ogiva, proprio una bomba di suora a punta bianca e nera, ma faceva paura per davvero, tutta grinzosa con quegli occhiacci chiari. Sì, che io non era di qui, io mi ricordo, io non la capivo sempre. Una volta mi disse: Goretti, zitto con le mani in seconda. Io la guardavo, io, ma cosa la vorrà ora questa donna? Goretti, metti le mani in seconda! Io non sapevo sa fare, però, insomma, io le misi giunte, capito? Insieme, così dico, boh, la suora di Garberasse sto con le mani giunte. Lei la intendeva dietro la schiena, la si incazzò come una bestia. Pensa te che paura mi doveva fare, se me ne ricorda ancora. Suor Leontina un po' meglio, lei era più buona. No. Buona, non si può dire davvero, guardare, perché l'era d'un brutto, la picchiava da quanto l'era brutta. Io non vorrei che nessuno si offendesse, però io penso che ci debba essere per forza una correlazione fra il fatto che tu fa la suora e che tu fa schifo il cazzo. Abbiate pazienza, perché no, via, dai, non si è mai vista una suora, io non voglio dire bella, ma nemmeno passabile in tutta la storia della suora moderna e contemporanea. Io... sarà una coincidenza, se non mi dite voi, però insomma, Suor Leontina l'era buona d'animo, ecco, la mi voleva bene, però mi ricordo mi dava questi pizzichi nella pappagorgia parecchio forti, erano d'affetto secondo lei, però a me mi faceva proprio parecchio parecchio male, che fra l'altro io penso che forse ora questo sottogola che mi è venuto, perché lei con questi pizzichi mi ha fatto cedere il muscolo facciale, ma non lo so, mia. Però si vede qualcosa, mi hanno tramandato, perché ogni tanto mi viene il dubbio che Dio ci sia, capito? Senza tutto l'ambaradan, santi, così, la cappannuccia, ven via, quella lì non mi pare credibile, bue e la sinedra, però il Dio magari non lo so, oppure capace sia stata quella brutta cosa che mi è capitata da ragazzo, mi pare di ricordare qualcosa, ma non proprio il tunnel. Come si può? Ma so una sega. Il Ricciotti me lo diceva sempre. Te tu pensi troppo, Goretti. Un giorno ti schianta la testa. Hai visto? Ancora non m'è schiantata. C'è andata vicino, non m'è schiantata. Compenso ai Ricciotti qualche anno fa gli schianto il fegato. Hai visto? Oh, come beveva lui, non beveva nessuno, L'era peggio di Bigagli, però... i Bigagli, non so se ve lo ricordate, oltre che bere come un oltre fumava 4 pacchetti nazionali senza filtri al giorno, senza spiralle, pareva un lavoro praticamente, si metteva lì nell'angolino, pof pof pof, poi pof pof pof, pof. Questa cappa di fumo, noi tutti a dire boh, vedrai, tanto male non gli farà se non la aspira, vedrai, e infatti a polmoni non ha mai avuto nulla. In compenso diventò completamente cieco, capito? Perché il fumo gli entrò dentro il teschio cranico, gli mangiò gli occhi, capito? Gli mangiò la parte fra occhi e testa, via, e rimase cieco. Il Mazzaferri invece, povero uomo, lui una volta per scommessa mangiò 90 vasode, non aveva fondo. Quando c'era pranzi aziendali, hai visto che si facevano, o qui ai circolino, queste cose, o quell'altro verso le 3, le 4, quando si alzavano dal tavolo, andavano a casa a buttarsi sul divano, lui andava a fare merenda, mangiava mezzo chilo di pane con il prosciutto, con il salame, e poi andava a casa a cena e cenava. Faceva impressione a guardarlo. La sua moglie glielo diceva anche: a me piacere, smetti, tu fa schifo davvero. Tu fa impressione, tu scoppi prima o poi, le palese, perché come tu fai andare avanti, tu fai schifo il cazzo, tu fai schifo il maiale nero. La usava tutte queste frasi, la povera donna e personaggio, anche lei l'è morta lei tanto, fra un po' la ritorna. Ma ve l'ho bene detto queste cose, perché scusate, io ve l'ho detto, non ce l'ho la testa buona davvero. Però di tutti i personaggi che sono passati da qui, la mia preferita in assoluto l'è sempre stata la Madonnina. No, no, di essere innamorato, e io non, no, no, la mia, io innamorare è la mia preferita, ecco. La sta sempre a sedere lì davanti a due minuti. La Madonnina la si chiama di nome Marisa Ganzaroli, Ganzeri, come si chiama di nome la Madonnina? Ganzucci. Lo so, a pensarci bene, sono nemmeno sicuro la si chiami Marisa di nome. Quando arriva gliene voglio chiedere. Però sai, per noi è sempre stata la Madonnina, capito? Perché da ragazza la pareva una Madonnina proprio bellina, con quel nasino, quei capelli. Anche ora lei è una bella donna, Però gli è venuta un'idea. Ora la seconda della luce la assomiglia un po' a Gad Lerner, ecco, a quel giornalista che Gad Lerner è un bell'uomo, per carità, però insomma, comunque per noi la fu chiamata Madonnina anche per un altro motivo. Il fatto è che la bestemmiava in un modo mai sentito né prima né poi. Io qui nel paese, sì, per carità di Dio, siamo tutti comunisti da sempre, però siamo un po' più mischiati, sai, no, di dire il rispetto, quella roba. Però per dire, qui al circolo, per farvi un esempio, può venire anche il prete, capito? Viene qui a prendere il caffè e mai nessuno che l'abbia picchiato, per dire, no, no, mai, noi siamo persone. E io, figurati, anch'io ho sempre bestemmiato, bestemmiavo, bestemmia ancora e bestemmierò fino alla fine se il Signore mi dà la forza, ma mica in quel modo. Lei è una fantasia, un estro. Io, guarda, credo non avergli mai sentito in bocca due volte lo stesso muccolo. La prende animali, malattie, aggettivi qualificativi, e poi la rimischia con Dio, con Gesù, con santi del paradiso, santi anche minori, perché io capisco rifassela un Sant'Antonio a Padova, sale famoso, ma bestemmiare San Genesio, martire e poeta, ma chi cazzo la, no, non lo so, mi sembra. Ma infatti la cosa fondamentale è che lei non è toscana, lei è del nord Italia, lei è di Lucca, sicché, capito, non è come noi, capito? L'arrivò sposata, uno faceva il viaggiatore, ma l'è morto quasi subito. Ma lei era, diceva, sveglia lei, e guarda, io penso ancora non avesse nemmeno sfatto le valigie, la venne subito qui al circolo, la beve un caffè, la si guardò un po' intorno e la disse: oh, ma donne non ce n'è qui? E noi, ammine, se tu vieni la sera della pizza bassa, sa, la pizza scrocchiella, quella, insomma, a servire sono tutte. No, disse lei, a decidere nel consiglio un ce n'è di donne? E noi, sai, quei tempi, anche se tu provavi a essere un po' emancipato, ma le donne nel consiglio era tanta roba, e insomma gli si disse no, via, e non ci sono. Male, la disse lei, strano ma non bestemmio. Si vede ancora da farsi conoscere. La pagò il caffè e andò via. Tempo due mesi c'era lei nel consiglio del circolino, sicché non solo una donna, ma giovane a quella maniera. Ma era così, era una decisa ancora lei. Lei la disse che andavano fatte più iniziative per le donne, i dibattiti per le donne, le tombole per le donne, insomma, gli altri incredettero e andarono subito dietro, la misero nel consiglio e via. E mi ricordo un giorno gli chiesi: abbia pazienza, Madonnina, ma come la fece a capire che non ce n'era donne nel consiglio di circolo solo guardandosi intorno ai bar? Perché? E lei, ascolti Coretti, perché lei non ha mai preso a chiamarci per soprannome. Boh, si vede la sua Luca annusa, non so, boh, insomma. Lei mi disse: ascolti Coretti, se non c'è donne nella sala delle carte, vuol dire non c'è donne nel direttivo. E io, ma oh, questo, come mai? E Elena mi disse: perché vuol dire non hanno preso l'abitudine a considerare la casa del popolo anche di loro? E invece bisogna fargliela pigliare, Goretti, quell'abitudine, perché il popolo l'è popolo uomo, ma l'è anche popolo donna, sa? Via, andiamo, si fa una partitina a briscola. E quello fu il primo giorno che si giocò a briscola. Impressionante. Non gli si stava dietro. Lei diceva aveva imparato perché la sua mamma l'era morta quando lei era piccina. Lei la stava in questo casolare un po' isolato con il suo babbo e tre fratelli. Schi, capito? Come tu fai? Le carte erano l'unico passatempo. Certo toccava giocare con i paraorecchi, perché la tirava giù delle madonne, la faceva lume. Il suo compagno da allora, in Nocchi, si faceva il segno della croce tutte le volte. Posava le carte, si faceva il segno della... Chi ha cei sommaristi in Nocchi in chiesa? Però, ve l'ho detto, qui in paese siamo... Come si può dire? Mischiati. Un miscuglione. Ecco. La madonnina no. No, no, no. Lei l'ha sempre avuta nuggia tutta quella parte lì. Diceva che il suo babbo era anarchico, che andava alle riunioni, sai, lassù in Liguria, come si chiama, a Massa Carrara, lassù, e lei, Dio preti, non li può vedere. No, no. Il suo compagno di ora, due minuti, porta una sega. Lei la prova ogni tanto a parlarci di questa roba, ma lui, no, no, se non c'è da grattare e vincere, non si incarica. Io alla Madonnina gli ho sempre dato del lei, mi è sempre venuto spontaneo. Lei la lo disse di provare a passare ai tu, io ci provai, ma non mi viene proprio, ma nemmeno ora, gli do di lei ancora, pensa. Lei invece gli è venuto di passare ai tu, l'è passata ai tu, sì. Guarda, io penso sia l'ammirazione che ho per lei, perché lei è una donna forte che l'ha reagito bene anche a quella cosa che gli è successa, perché a lei è successa peggio che a me. No, peggio no, insomma, gli è successa brutta anche a lei, però. Perché negli anni l'era diventata un po' un personaggio, non dico importante, però ha visto questo fatto che lei era la donna nel circolino, l'andava alle riunioni, alle manifestazioni. E una sera a Firenze, insomma, l'era per tornare a casa alla stazione da sola, la fermarono e la picchiarono, via. Dice la picchiarono e basta, e no che sia meno grave. Che si è matto, anzi, si stavano per le mani noi, si disse anche: Madonnina, si va a cercare di noi, ce li descriva, si ammazzano. E lei: ma dove volete andare, Madonna? Ma, e via. E poi, insomma, ve l'ho detto, me l'è fatta. Però dice: insomma, la picchiarono e non la. Non... Via, tanto avete capito. Io spero per lei sia vero. Mi pare strano, perché lei era così bellina, già che tu sei bestia ad andare a picchiare una donna. Insomma, fu un brutto periodo, anche per lei, sì, la rimase traumatizzata, sì. Però da lì la raddoppiò gli eventi proprio, ancora la prosegue, qui alla Casa del Popolo l'ha fatto questa associazione, si chiama Vogliamo Anche le Rose, boh, so io, non so, è un libro, l'anno scorso fece il corso d'autodifesa nella saletta di sopra, che a noi, ora scusatemi, ci viene da ridere, perché immaginassi quelle vecchine a fare il karate, capito? Però dopo ci si ricordò degli occhi neri della Madonnina quella sera e si rise meno, vai. Una donna forte, come ce ne sarebbe stato bisogno in tutti i circoli. Ora ci sono, non tante, però ci sono. Ma io dico, in quegli anni ce ne sarebbe stato bisogno, sì, davvero. Lei, noi si capì a forza, perché lei la si impose, ce lo fece proprio vedere di cosa lei era capace. Io voglio dire che noi, anche se in generale siamo qui in paese, siamo sempre stati duri come il cemento, si capì, davvero, guarda, quella volta lì, Dio buono, si capì e si fu bravi, perché mica sempre si capiscano alla prima le cose. Io quando andai nel coma l'ho capito dopo. Per esempio, l'ho capito quando mi svegliai. Lì per lì, non so dire, mi sembrava normale e invece ero morto. Dicono che mi è rimasto roba strana nel cervello. Dicono che vedo gente che non esiste nel cervello. Capace, per dire, capace, per esempio, capace che sono da solo nella sala delle carte e vedo gente ferma che mi guarda. dicono da quei giorno nel cervello c'ho casino, è come se la testa fosse ferma, che qualsiasi cambiamento mi dà noia, mi dà più noia di quanta dovrebbe, via. Dicono, vi dico un segreto a voi se ci siete, se esistete, a volte mi guardo allo specchio e mi vedo come allora, pensa te da ragazzo, mi succede delle volte che mi vedo giovane, no, via, più giovane, un po' più giovane di questo troiaio. Dicono che funziona un po' a mezzo da qui giorno maledetto, ve l'ho detto, se ci siete, a me mi garba la roba un po' sbagliata, un po' mancamentata, se no che gusto c'è, tutto bellino, tutto ordinato, tutto in fila, l'età democristiani e noi siamo comunisti, sì, siamo comunisti qui, per Dio, non si vuole più dire, pazienza, ve l'ho detto. E son fermo a qui giornaccio maledetto, un imbecille maledetto con una jeep maledetto, mi mise sotto maledetto qui davanti e non si fermò maledetto e dice anda aspettare che lo pigliavano e dice anda aspettare anche a me, no, cioè dice anda aspettare alla mia mamma, povera donna, ad aspettare, che non c'era altro da fare che aspettare, io sentivo, mi pareva aspettare la mia mamma, povera donna, non ce la fece aspettare, lei era vecchia mica tanto, non ce la fece, povera donna, dai dolore ad aspettare, mi si fermò il cuore, la morì, sì davvero, povera donna la mia mamma, non ce la fece, colpa mia che non mi svegliavo e non capivo, e non capivo, capivo male, maledetto, capivo male, capivo strano, e da allora capisco strano, capisco male, sono normale, non è che sia, però ecco, insomma, via. Goretti. E mi pare che non ti torni nemmeno stavolta. Tu puoi aspettare almeno che finisca? Boh, insomma, però via, l'è partita male. E allora l'è partita male? Che sono sempre a far festa di là? No, ma che... Anzi, caro Goretti, si è fatta anche una scelta e sono bella andati tutti via. Io ho dato anche una bella pulitina. Bravo, ti ho fatto bene. Per fai che? Come? Non dico una ripulitina, per fai che? Ma insomma, come mai? Scusa. Ma se tanto bisogna chiudere. Ma ho capito, allora io che faccio? Vado, lascio i vassoi, tutto a giro bicchieri di plastica, eh? Va, ven via, Goretti, giù. L'è sempre stato questo il tuo problema, Massimino. Te a questo posto tu ne hai sempre voluto troppo bene. No, no, no, no, non è questa lascia la questione. Fare, lascia fare. È che a me mi garba fare le cose per bene. E poi sì, gli ho voluto bene sì a questo posto. O te non tu gli hai voluto bene. O che discorso sarebbe? Certo gli ho voluto bene, ma per me l'è più facile volergli bene. Scusa, io venivo a giocare a carte, te a lavorare. L'è come andare a trombare con l'amante o con la moglie, è più facile l'amante, no? Ma che paragoni sono questi, Goretti? Ma che tu ne sai te dell'amante, della moglie? Un po' lo so, un po' lo saprei. Ascolta. Tu me la faresti una grappina morbida? Una? Grappina morbida. E tu sei poco morbido, Goretti, non ti fa proprio nulla, poi ci sta che la ti faccia anche male, anzi poi sono venuto a ditti e c'è da andare via, c'è da andare via. Ma l'ultima sera una grappina morbida. Poi ascolta, non te la voglio fare questa grappina morbida, poi tu ci rimani secco, è colpa mia. Ma non me la fare. Voglio vedere, guarda, ascolta, voglio vedere se venga a chiedere a qui barre di cazzo dove tu vai a lavorare da domani, se tu me la dai o no. Ok, c'è, certo non te la do. Tu me la dai, tu me la dai. Lì tu puoi decidere te, sai. Se il proprietario vede che non tu vendi, ti manda a fanculo alla sverta, sai. Mi gabberebbe sapere come tu fa a saperlo. O che ci sei mai stato al caffè 31? Ma per carità di Dio. E allora che cazzo ne sai? Un po' lo so. Lo sa, insomma, via, Goretti, giù. Ma è possibile di quell'altro non si sia visto nessuno? Palle te quegli altri grulli. Ah sì, Petra, l'è passata la Madonnina di corsa, da su l'ha preso la roba dell'associazione. Salutami tutti, digli tanto ci si vede domani. Domani? Sì, mi ha detto domani. E dove? Ma vedrei ai bar in piazza, no? Bravo, insomma, ho messo piede in vita mia, comincio domani. Allora tu dici perché ti gira coglioni, poi domani ti pare di andare a giocare in bar. Va in bene, piazza, mi pare vero, va, sì, si guarderà. Sì, si oh, Massimo, ascolta una cosa, ma la Madonnina di nome, sì, come la si chiama? Di nome, no, di nome vero, dico, Marisa? Marisa. Come? Marisa. Marisa. Marisa. Cazzo di nome sarebbe? La si chiama così, il cazzo di nome è lei. Pensa, strano, avrebbe potuto fare la suora, se voleva. La suora, la Madonnina. No, certo, per dire, il nome strano da suora ce l'aveva. Senti, di cognome Ganzucci, come la faceva? Martinelli. Come Martinelli? Non si chiamava Ganzo? No, te tutti imbrogli, tu dici Ganzerli, che era il cognome di suo marito, quello di morto, di San Marino. Bravo, t'hai ragione, sì, San bravo. Marino. Oh, Goretti, ma tu sai nemmeno i nomi di esti, tu ci giochi da 20 anni. Beh, per far che i nomi? Ma, insomma. No, cosa c'è in un nome? Quella che noi chiamiamo la Rosa avrebbe forse un altro odore con un nome diverso? Ma che tu dici? È bella questa, questa è cultura. Mai capito cosa voglia dire, ma lo diceva sempre Maurino quando faceva il teatro. Ma allora cultura alta se la diceva. Ma chef, c'aveva il su. Ascolta, fammi una grappina morbida, via. Una grappina. Voglio questa grappina, ti ho detto non te la fo, via, non insiste. Non me la fare, vai, non me la fare. No, bravo, non ti fo proprio nulla. Bravo, va bene. Eccoci, andiamo via, Goretti, se fatto. No, no, non ti ha capito. La grappina non me la fare, ma io da qui mi muovo. Ascolta, Goretti, non mi fa bestemmiare proprio l'ultima sera, non che non c'è da fare un cazzo. Ma io domattina devo venire qui, no. Vieni il camion a portare gli scatoloni. Bene, li portano bianca a me con gli scatoloni domattina a me. Goretti, per piacere. Ascolta, ma 2 minuti a Khrushchev è possibile non si siamo visti l'ultimo giorno? Io mi pare. Coglioni, sempre con questi. Sì, aspetta, le passa anche l'altro Maurino oggi pomeriggio, ma anche lui ha il volo. Khrushchev invece non è venuto, no? Perché a lui gli faceva venire groppo. Vedi, te l'ho detto. Lui è una persona sensitiva. Senti, persona sensitiva. Allora, io voglio rimanere qui. Eccoci, queste sono le chiavi, te le lascio. Guarda, attento, perché c'è anche le chiavi della mia macchina. Attenzione, c'è 2 chiavi importanti. Sì. Una è quella del portone, questa, e quell'altra è quella della saracinesca. Sì, lo so. Quando tu vieni via, mi raccomando, dai 2 mandate, perché poi. Proprio la riserva, e poi dopo per la strada torni a casa, tu mi lascerai la setta della posta. Mi raccomando, Goretti, però portamele, sì, perché domattina io c'ho da venire qui, c'ho da far pulito, viene quello del camion, te non c'è da fare niente, ma domattina c'è. Massimo, non ho capito. Tieni, allora, va, queste sono per te, rimani qui. Qual è lei, quella della saracinese? Ah, fanculo, ti piglio in giro, lo so qual è lei. Piglia in giro. Senti, allora rimani qui a pensare, aveva ragione il Ricciotti, a te prima o poi ti scoppi il capo. Ma tu ci vuoi rimanere, stai fino a quanto ti pare. Portami le chiavi, io vo a letto, va bene? Va, vai. Ci si vede a giro, va bene? Mamma mia, tanti discorsi ho che sentire, ci si vede a giro. Ma Goretti, ma non è che finisci in mondo domani. Ascolta, facciamolo, Massimino, ascoltami. Quanti anni hai te? 40. O io? Te 80. No, Dio buono, 78. No, infatti, ma te li porta anche bene. Davvero, intanto me ne dai 2 in più. Ho capito la vabbè, prima. Comunque, non importa. Ti volevo chiedere, secondo te, levato che alla Casa di Popolo, uno di 40 e uno di 80, 78 anni, ma in dove si dovrebbero frequentare? Non è vera questa cosa, l'avete presa storta, allora nega anche insiste. L'evidenza, vai, va bene, non è vabbè, fai che tu vuoi, rimani qui, rimani qui, io però vo a letto, vai, ti lascio da solo con tutti i tuoi stupi pensieri. Però Goretti, ho pensato una cosa, se domani nel pulire, nello spostare tutti i mobili dovesse saltare fuori gobbo a mattoni, ho pensato io, te lo cornicio e te lo porto. Va bene, che ti devo dire, mi sembra una. Ma io non credo sarti fuori, Massimo. No, tu vedrai, perché hai visto le carte, le teniamo sopra il banco, a volte probabilmente a spolverarle, andrà finì sotto il bancone, vedrai domani si porta via tutto, le scatole, tutta la roba salta fuori, vedrai. Speriamo. Sì. Buonanotte, Goretti. Buonanotte, Massimino. E ragiona bene lui. Sana sei che vuol dire. Io e quelli della mia generazione siamo invecchiati subito, sempre vecchi, anche da ragazzi. Si è fatta appena a tempo a dare una mano per far rialzare questo paesaccio bastardo dalla guerra. Le è arrivati il 68, l'anni 70, addio le sale da ballo, e poi con l'anni 80 le tecnologie nuove, le mode, le televisioni, noi sarebbe le diventate preistoria. Eppure cazzo sarà 40 anni, mica 100. Ma sì, l'era tutt'una con i nostri genitori, almeno loro la guerra l'avevano fatta, noi nemmeno quella. Noi siamo quelli se vissuta ma ci si ricorda a malapena, e che ci siamo presi in viso tutti dopo, sai. E posti come questo sono sempre stati per noi rifugi, in dove sarà un posto in mondo anche noi. Poi diamine, va bene ogni cosa, le associazioni, quelli dei pappagalli, i teatri, il calcio barilla, le femmine incazzate, la madonnina, ma più che altro se era noi. Io mi ricordo a piccino la mia mamma mi insegnava le maniere, povera donna. Mi diceva come pettinarmi, come andare vestito, mi devo fare la barba tutti i giorni o la lametta. Questo non si dice, non si bestemmia, non si sputa. Oh, ma io un mondo dove si comporta a questa maniera non mi ha mai trovato, sai. Quando io avevo 30 anni, quelli con 3 o 4 anni meno di me c'avevano capelli lunghi fino a piedi e un vestito di cessato, non l'avevo mai visto in vita loro. E allora? Ma non è mica per giudicare loro, io dico che noi siamo stati preparati per un mondo e poi è andato in un'altra maniera. Ecco, e questo... che ci chiudano anche le case del popolo nello scacco finale. Noi protagonisti non siamo mai stati. La guerra la facevano quelli più grandi, la rivoluzione quelli più giovani. Le case del popolo uguale, le costruivano quelli più grandi, le mandavano avanti quelli più giovani. A dirci cosa fare a noi. E noi sempre in mezzo, sempre in mezzo, sempre a metà. Poi dice mi arba le cose mancamentate. Per forza, cazzo! Non è per passione, le appartenenza alla bandiera. Ma va bene uguale. Scusate lo sfogo, io non ho avuto una vita facile, anche se non mi garba tanto raccontare di me, ogni tanto però dice fa bene sfogarsi, allora vai, a posto. Però ecco, almeno una cosa fatemela fare, fatemi chiudere a me, visto che non sono stato io a aprirlo questo posto e non sono stato io per la più parte a mandarlo avanti, almeno sia io a chiuderlo. Guarda. Eccolo qui. Il gobbo a mattoni. L'ho tenuto nel portafoglio 15 anni. L'avevo io, sì. E ora gliene rendo. Facciamo le cose per bene. Qui giace il circolino, ex casa del popolo, costruito dal paese intero 50 e passa anni fa, ufficialmente aperto da Morandi Gianni, detto il fidanzatino d'Italia, cantante, attore e uomo di spettacolo, e ufficialmente chiuso 50 e passa anni dopo da Goretti Riccardo, detto il sindachino, rivoluzionario mancato, morto e risorto già una volta come fece quell'altro, amato da tutti e da nessuno. Vaffanculo.